La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 49, 50 secondi in diretta da Milano, assolatissima. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast, come sempre Oscar Giannino. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E a dire la verità, la puntata di oggi nasce proprio da molte lettere e anche molte telefonate e messaggi che abbiamo ricevuto dopo che ci siamo occupati, soprattutto sabato ai Conti della Belva, ma lo avevamo fatto anche in una trasmissione della versione di Oscar, della questione relativa all'emendamento concernente Flixbus nel mille proroghe. Lo avevamo fatto prima che l'Aula poi approvasse in seconda lettura i tre ordini del giorno, cioè avevamo descritto il problema e sollevato la questione, e poi lo abbiamo fatto dopo a Conti della Belva. E le lettere si sono divise in due grandi categorie, le lettere, i messaggi, le telefonate. C'erano da una parte molti di voi ascoltatori, diciamo diventati clienti di Flixbus, che dicevano bene bene bene, e ora occorrerà sorvegliare, cioè sorvegliare nel senso che, come sapete, l'emendamento anti Flixbus, per capirci con una formula sintetica giornalistica che naturalmente viene respinta da chi l'ha redatto, non è stato in seconda lettura cassato. Il governo ha detto ok a delle mozioni presentate in seconda lettura all'impegno di tornare su questa norma nella prima occasione possibile, per evitare che si dovesse procedere a un rinvio alla prima Camera che aveva approvato il testo. E questo era il punto nel quale siamo intervenuti con l'ultima trasmissione dei Conti della Belva. Questo era un blocco di lettere, però ci hanno anche contattato aziende che dicono no, però voi siete stati unilaterali, perché va bene e siete liberi di tifare per la liberalizzazione e il modello di business che vi abbiamo già descritto di Flixbus, però ci sono anche le ragioni di chi ritiene che ci siano dei problemi in quel modello, e soprattutto che mettano a rischio le condizioni della normativa vigente. Per cui ci siamo detti, è corretto, per questioni di completezza dell'informazione, sentire anche la completezza dei punti di vista sulla questione. Riepilogo le tappe dell'argomento prima di presentarvi gli ospiti. Stiamo parlando del processo di liberalizzazione del trasporto interregionale, cioè tra regioni su gomma, in cui l'Italia è stata pioniere, questo va riconosciuto. Non è affatto vero che siamo sempre in coda noi nelle riforme, perché la liberalizzazione dei servizi interregionali su gomma di trasporto è di fine 2005. Ecco, è di fine 2005, sia pur poi consentendo, quindi è prima della piena liberalizzazione di questo segmento da parte dell'Unione Europea. La liberalizzazione che cosa significava? Significava che mentre il regime precedente vedeva aziende operare in regime di concessione con delle autorizzazioni di durata quinquennale, le concessioni che esistevano a quella data nel 2005 sarebbero andate poi in scadenza, la scadenza è stata protratta, sostituite poi da autorizzazioni che non hanno un carattere esclusivo e quindi consentono a tutte le imprese autorizzate di offrire il medesimo servizio in concorrenza tra loro. Nel frattempo poi anche altri paesi europei che sono arrivati dopo di noi hanno fatto la liberalizzazione. Nel 2013 è avvenuta per gli autobus a lunga percorrenza in Germania, e i passeggeri sono raddoppiati da 8 a 16 milioni, una crescita del 93% nel primo anno. Nel 2015, che fino a quel momento la Francia, che fino a quel momento era stata assolutamente impenetrabile alla liberalizzazione, con Emmanuel Macron, che è il candidato, come sapete, a oggi nei sondaggi più probabile antagonista della Le Pen per il ballottaggio dell'Eliseo, e fu proprio il ministro allora Macron nel 2015 a decidere una liberalizzazione analoga in Francia, e anche lì i risultati sono stati concreti ed evidenti, perché sono in 6 mesi dopo la liberalizzazione si è aggiunto al mercato preesistente dei trasporti di lunga tratta su autobus 1,5 milioni di passeggeri. Il primo gruppo estero a entrare nel mercato italiano, stiamo parlando di metà 2014, è stato Megabus, quindi società scozzese. Poi è arrivata l'azienda Flixbus, ve l'abbiamo descritta, azienda bavarese, che agisce con un sistema che mette a disposizione piattaforma, una piattaforma in buona sostanza di intermediazione tra domanda e offerta. Vi abbiamo detto c'è un prezzo variabile a seconda dell'incrocio della domanda e offerta, ed è questo, come vedremo, uno dei punti fondamentali di contestazione da parte delle aziende che gestiscono questo tipo di servizio nel nostro paese. E attraverso questa piattaforma integra aziende italiane che, disponendo quindi di margini prima non perseguibili attraverso il loro perimetro e il loro parco mezzi, sono associate in una crescita del mercato che c'è stata, come ve l'abbiamo descritta, perché si raggiungono oltre 1000 mete europee attraverso Flixbus. E però questo ha posto dei problemi. Tanto che l'associazione, l'ANAV, che riunisce le imprese del settore, in realtà aveva prima, e con questo finisco, prima di arrivare all'emendamento anti-Flixbus del milleproroghe, aveva anche sollevato un problema formale che dalla magistratura amministrativa era poi andato all'autorità antitrust, che si era pronunciata nel 2016. E questa obiezione ha proprio a che vedere con il tipo di tariffa variabile consentita dalla piattaforma tecnologica che caratterizza Flixbus, perché la contestazione delle aziende che operano il servizio prima del suo ingresso sul mercato italiano è che le norme vigenti prevedono esclusivamente che i prezzi siano prestabiliti, e quindi la variabilità si aumenterà i passeggeri, da margine a imprese italiane che prima erano in difficoltà, però la norma non è stata modificata. Ecco, questo è uno dei punti, e qui mi fermo, fondamentali, che spiegano poi perché si arriva all'emendamento nel milleproroghe e si arriva a una soluzione o non soluzione, perché di fatto la norma è vigente, quella anti-Flixbus, quindi bisognerà vedere poi se davvero nei 90 giorni che la norma dispone perché diventi operativa nei confronti di Flixbus c'è davvero la correzione del testo vigente oppure no. Allora, questo è il quadro di fondo, spero mondo di errori e di pregiudizi, e adesso vi presento i nostri ospiti. Abbiamo appunto chiamato il presidente dell'ANAV, cioè dell'Associazione Nazionale dell'Autotrasporto Viaggiatori, Giuseppe Vinella. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei, dottor Giannino. E abbiamo Sergio Boccadutri, deputato del PD anche. Buon pomeriggio. Salve. Allora, presidente, innanzitutto la prego di correggere qualunque svista, errore o ignoranza da parte mia nella sintesi iniziale sul fuoco del problema. E poi naturalmente di spiegarci il punto di vista però dei suoi associati. Ma guardi, ovviamente penso che si è parlato della vicenda come se fosse una restrizione del mercato. In realtà il legislatore, dietro anche sollecitazione della nostra associazione, ha soltanto rimesso ordine a un decreto legislativo che, come bene ricordava, siamo stati tra i primi in Europa a liberalizzare, e posso con onore dire che il sottoscritto è un fautore della liberalizzazione. Quindi di questo penso che sia il cliente e sia lo Stato italiano ne può andare orgoglioso in tutta Europa. L'articolo 5, se lei ha avuto modo di poterlo affrontare, non voglio essere eccessivamente tecnico perché ovviamente entreremmo in specificità che invece però al cliente finale interessano poco. Il 285 all'articolo 2 recita e richiama il codice degli appalti, che a suo tempo le ricorderà era il 158. Sì. Oggi, lei ben sa, è stato DGS 163, il codice degli appalti, e ora c'è in vigenza il DLGS del 2016 ed è quindi già una legge dell'ordinamento statale. Sì. Di questo il 2.5, che è del 2005, in realtà doveva necessariamente chiarire quelle che erano e che sono le prerogative quando degli imprenditori decidono di associarsi in associazioni temporanee di impresa. Sì. Questo ha fatto il legislatore, cioè ha chiarito e riportato, se lei legge, penso che l'avrà letto esattamente, il DLGS 50, articolo 48,2, non è né più né meno che l'articolo 2 bis della legge di recente approvazione, se non ricordo male ha preso il numero 19, di conversione del decreto legislativo del decreto 244 del 2016. Questo è in realtà. Per il consumatore non cambia nulla, non esiste assolutamente nessun problema, non abbiamo timore corretta, non abbiamo timore delle piattaforme. Quelle piattaforme ce l'hanno anche gli operatori italiani. Il mio amico Andrea Inconti può starne non sereno, ma anche di più. È solo ed esclusivamente una chiarezza che il legislatore, io dico giustamente, ha richiamato quello che è il codice degli appalti, nel dire che anche nel nostro settore chi vuol fare un mestiere che è il mestiere di autotrasporto, il mandatario non può che essere un soggetto che ne garantisce ovviamente la sicurezza. Ah, aspetti, aspetti, adesso io spiego, tento di aggiungere, perché lei è stato chiaro per chi ovviamente conosce un po' la faccenda, i nostri ascoltatori no. Qual è il punto, mi corregga qualunque errore faccia, per renderlo ancora più comprensibile, lei l'ha spiegato in termini precisi dal punto di vista della norma. La famosa norma che passa, l'ho già detto, con la semplificazione giornalistica come anti-Flixbus, cosa dice? Quella che dice entro 90 giorni deve avvenire che si mettono in regola tutti i soggetti, su che cosa, cari ascoltatori, lei Presidente mi corregga, stiamo parlando di raggruppamento di imprese di tipo verticale, ecco. Esattamente come è quello del modello Flixbus, non solo di Flixbus, chiaramente. Allora, che cosa dice la norma che viene richiamata? Dice questo, che il mandatario, come si dice in gergo tecnico, quindi in questo caso dice Flix... la norma della sì, quella del decreto legislativo 285 del 2005. Sì, esatto. No, del 50. La legge degli appalti. Esatto, sì, ha ragione. Sì, è solo per precisione. Perché se no rischiamo di dare una comunicazione che sembra come se il legislatore sia intervenuto a fare una norma anticoncorrenza. No, assolutamente no. Qui c'è scritto appunto qui che il mandatario, no? Nel raggruppamento degli operatori economici esegue le attività principali di trasporto dei passeggeri su strada. E per noi è il trasporto. Come, e per voi è il trasporto. L'effetto appunto di questa indicazione applicato al caso Flixbus, in cui Flixbus come piattaforma, associazione e organizzazione verticale non esercita come attività principale il trasporto, ma quella della prestazione di un sistema di incrocio di domanda offerta, cioè la famosa piattaforma, ecco che crea il problema rispetto a Flixbus. Ho commesso qualche errore nel dirlo? Nel come l'ha raccontato non ha commesso errori, ecco. Però doveva aggiungere che è all'interno delle associazioni temporanee di impresa il ruolo di mandante. Sì. Benissimo, la mandante sempre nelle associazioni temporanee di impresa, ma tutto l'ordinamento, non soltanto in quello dei trasporti, è un soggetto che invece è di supporto alla mandataria per far sì che il servizio venga offerto alla clientela nel miglior modo possibile, alle migliori condizioni possibili, al quello che il cliente dice ottenere attraverso la concorrenza. Questo quindi non vieta, non dà assolutissimamente limitazioni, è soltanto una normalissima esplicita che probabilmente non ce ne sarebbe, non era necessario neanche effettuarla, però è stato necessario secondo noi perché vi è una circolare del 2015, così lei se la segni e se la fa andare, che invece interpretava la norma degli appalti, ok? Dove invece in questa circolare ministeriale veniva ad essere letto, invece non è leggibile da nessuna parte, che l'intestatario di un'autorizzazione poteva essere anche una piattaforma. Una piattaforma. O potrei dire anche il un soggetto essere utile commercialmente all'iniziativa, ma non sicuramente chi ne garantisce la sicurezza del servizio. Cioè noi ci affezioniamo a dire il cliente, mi faccia terminare quello che ritiene opportuno. Certo. Noi ci affezioniamo a dire noi gradiamo viaggiare ad un euro, a 3 euro, a 5 euro. Ma fare trazione, Giannino, dove i costi del gasolio non li decide né lei né io, ma ci sono delle condizioni stabilite all'Ocse che ne dà in imprimatur quello che è il prezzo, cosiddetta staffetta, del prezzo del gasolio. Il costo del personale, se vengono rispettati i contratti con i nazionali di lavoro, non c'è differenza alcuna tra operatore e operatore. C'è soltanto da fare politiche aggressive nel mercato che sono legittime e siamo contenti di confrontarci con quelle politiche aggressive. Però le politiche aggressive, come ricordava lei, il primo operatore in Italia avveniva con quelle politiche, però quell'operatore ha acquistato mezzi. Sì, sì, era diverso il modello. Persone, era diverso. Totalmente differente, perfetto. Lei sa quanto è durato quel modello, Giannino? Eh già, non è durato molto. Benissimo, 8 mesi, ha messo nell'astrico 150 famiglie, ok? Sa chi ha acquistato quel marchio, Giannino? Però, posso dire... No, lo sa o no? Dica. Lo sa o no? Dica. No, l'ha utilizzato Flix, l'ha acquistato Flix. Solo il marchio. Sì. Se un operatore italiano fa un subentro in un'impresa, lei 150 persone le riesce a mandare a casa, Giannino? Guardi, io non posso rispondere sì o no, perché la mia tesi è che dal fallimento di quel primo tentativo subentra, questa è la bellezza del mercato, e però distingo subito prima che mi interrompa dall'osservazione che ha fatto prima, la bellezza del mercato è consente di imparare dagli errori, quindi assumendo il marchio e non i dipendenti, secondo me c'è stato un processo che non sta a me decidere se positivo o negativo, ma che è un classico procedimento degli apprendimenti dai trials and errors in cui costituisce la logica del mercato. Ma, ripeto, questa è un'osservazione. La seconda non la metterei su chi tutela meglio l'occupazione, francamente, ma invece la questione di fondo, perché quella riguarda la legittimità, è quella. Ma non è che il Flixbus esiste grazie a un'interpretazione di una circolare, quindi stiamo parlando di un atto normativo del più basso livello nella fonte della gerarchia normativa italiana, mentre invece secondo la legge non dovrebbe esistere? Corretta la domanda? No. No, sì o no? È corretta la mia domanda? No, io non la porrei così, no. Lei però prima ha spiegato che una circolare, presumendo di una cosa che in realtà non si leggeva, poteva essere letta nel senso che autorizzasse una cosa che secondo la legge invece è inequivoca, o così? No. Quella circolare non è indirizzata alle imprese, era indirizzata alle motorizzazioni civili italiane. Okay. E quindi gli operatori economici non erano assolutamente perfetto, stati non ho capito, quindi, ma adesso senza... Quando noi ne siamo entrati a conoscenza, tutta la categoria, abbiamo, tra virgolette, fatto alcune osservazioni dicendo questo non è previsto né dalla normativa comunitaria, non è previsto né dalle leggi dello Stato. È una precisazione, ma insomma la domanda era relativa a questa. Allora, fermiamoci un secondo perché abbiamo un minuto di traffico, appunto, e poi sentiamo anche l'opinione dell'onorevole Boccadutri. A tra un minuto. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Sì, lo davo per scontato, cari ascoltatori, che molti di voi avreste protestato per l'incomprensibile selva di riferimenti normativi. Purtuttavia, di fronte a una questione che ha fatto molto discutere, continuerà a far discutere, la liberalizzazione legittima o meno nel trasporto interregionale di lungo percorso anche fuori dall'Italia della piattaforma Flixbus, ho ritenuto corretto e doveroso sentire le opinioni di chi obietta, e obietta in nome della legge, come avete sentito. Complicato spiegarlo, me ne rendo conto, viviamo in un paese in cui la selva normativa è quella che è, questo non dipende né dal presidente dell'ANAV Giuseppe Vinella che è con noi, Però a questo punto sentiamo anche l'opinione del deputato del PD Sergio Boccadutri. Grazie ancora di essere con noi. Allora, lei che pensa? Ma io penso che abbia torto Vinella totalmente, e provo a renderlo molto semplice. Stiamo parlando di un mercato liberalizzato, le regole, se ci sono regole quindi comunque europee, di rango comunque europeo. Da questo punto di vista Flixbus sta operando e continua a operare in altri paesi, e perché altrimenti se decidessimo in un mercato libero le regole italiane significa che impediamo ad altri di entrare, insomma poi parliamo di cose appunto un mercato libero. Vinella cita sostanzialmente il principio dell'effettività dello svolgimento, che cioè insomma quello che deve essere, deve fare il trasporto. Sì. Allora, da questo punto di vista, quello è un principio europeo generale, però la cui applicazione non è che è una cosa che è assoluta, ma comporta, bisogna diciamo contemperare un giusto equilibrio rispetto anche altri diritti. Da questo punto di vista, prima quindi una questione di metodo, non si fa una cosa di questo tipo con un emendamento nottetempo nel mille proroghe, si fa un dibattito parlamentare in una legge che mai è legge concorrenza, perché da questo punto di vista io avrei voluto discutere se quel principio di effettività fatto in quel modo, che colpisce una sola azienda e poi ci lamentiamo insomma che dall'estero non vengono investiti in Italia, stiamo di fatto quindi impedendo a chi da 2 anni opera in un mercato come quello italiano, lo stiamo cancellando. Questo è l'effetto. Questo è l'effetto. Ci sono 35 operatori che lavorano con Flixbus e hanno detto così, avete chiuso di nuovo il mercato. Poi, se vogliamo parlare dei prezzi, vogliamo qualcuno con l'accusare che Flixbus fa dumping, bene, ci sono gli strumenti, c'è l'antitrust, si può rivolgere l'antitrust. No, ma io prima, prima, io ho risparmiato per non sembrare pregiudizialmente avverso, l'antitrust si è pronunciato e ha detto che il meccanismo della tariffa si è pronunciato nel caso preciso che era stato sollevato dall'ANAV e ha detto che non c'è nessun problema in relazione alla tariffa, al modello di decisione della tariffa, di valutazione all'oscillare di domanda e offerta del mercato. Si è pronunciato l'autorità garante della concorrenza del mercato con un parere emesso il 15 gennaio 2016. Chiusa parentesi, mi scusi. No, quindi appunto è stato già fatto. Io davvero, qui è stata fatta una cosa invece per molto protezionistica, secondo me è sbagliata, perché qui c'è un modello nuovo che impone ovviamente l'innovazione, che funziona, piace ai consumatori, sono garantiti, ovviamente è garantita la sicurezza, perché ovviamente i regolamenti sulla sicurezza del trasporto rimangono, perché lì Flixbus in Italia come in Germania comunque in quel paese è soggetto a queste norme. I contratti di lavoro sono quelli ovviamente di categoria. Però di categoria. A suo giudizio, sulla questione di legittimità che ci ha posto Vinella, il problema non sussiste, ho capito bene? No, sussiste perché è stata introdotta una forzatura con una norma che io adesso voglio cancellare, sul quale anche il Ministero e il MIT è intervenuto, ha detto rimetteremo mano. Allora, risentiamo di fronte a questa sua posizione, risentiamo un secondo Vinella, che dice? Ma io ho rispetto del pensiero dell'onorevole, ci mancherebbe, non lo condivido perché io ho fatto cenno soltanto a normative vigenti. L'onorevole invece per un attimo lo vedo non inserito, ma questo non per sua colpa, ma per una situazione probabilmente di non conoscenza del nostro settore. Noi non c'entra nulla la concorrenza, non c'entra nulla le piattaforme e quindi ben vengano le piattaforme, ben venga la concorrenza che c'è in Italia da anni, non vedo come si possa leggere. Poi quello che l'onorevole dice che il percorso normativo, questo non lo deve dire. No. Ok, però insomma, come è evidente, le posizioni restano distinte, ciascuno sulla sua posizione. Noi come informazione naturalmente faremo il nostro compito, io non nascondo mai il mio punto di vista che è per le liberalizzazioni più possibile, però detto questo, oggi come era giusto, visto che siamo stati molto sollecitati, abbiamo sentito anche chi dice no, la legge sta dalla parte nostra e non dalla vostra. Quindi grazie a Giuseppe Vinella, grazie a Sergio Boccadutri, continuate 24, appuntamento con Alessandro Mina domani alle 8:20, attenti noi due.